Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air. Forza, forza, è il momento vostro, cari amici, è il momento in cui dovete farci sentire che ci siete anche oggi. Dai! È arrivato il giorno in cui l'Italia manda in soffitta i professionisti del tanto non ce la faremo mai. Manda in soffitta i professionisti del qui non si finisce niente. Manda in soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. Basta piangere, basta il piagnisteo, è Natale, abbiamo la variante di Valico dove Renzi ha inaugurato tutto. È Natale, dai, basta piagnistei, su, e voi dovete dirci al 349-238-6666 che siete all'ascolto anche oggi, gentilmente. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in, jingle bell time. Mentre aspettiamo, Graziano mi ha fatto l'elenco e mi ha suggerito di dirvi che la prossima è la Salerno-Reggio Calabria. Sì, la Salerno-Reggio Calabria. Saluto Marie-Françoise che ci ascolta sempre da Monte Carlo. Buon Natale anche a te, Marie-Françoise. Salutiamo il fornaio Marco da Ravarino che lavora, molti che mi scrivono subito a lavorare, ero in vacanza, mi sono svegliato apposta per te. Vabbè, ma Tonio, ma chi sei tu? Buongiorno da Valmontone, Alberto, buon Natale, ma ci sono tantissimi, Roberto da Lugano anche. Dove dovremmo essere? Ci scrive un ascoltatore, qui, appunto, su Radio 24. Ci salutano anche dalla meravigliosa Valpolicella, dove oggi si lavora. Gennaro da Trento dice, ci sono anche domani se vuoi. No, io, Gennaro, io ti voglio bene, come se fossi un fratello, ma... Mi sto facendo la barba, fra mezz'ora sarò al lavoro anch'io. Claudio da Padova. Ragazzi, ma farsi la barba alle 6:30 del mattino, ma tenetela come me, ma cioè, non fatela, tenetela in conto, è pure la moda, eh. Rosa da Firenze ci ascolta anche oggi. Luca e Loretta, pasticceri della provincia di Piacenza, eccoli qua. Anche un ascoltatore dice, anche a me, anche a domani. Cioè, anch'io sono qui anche domani, se vuoi. E vi scambiate i numeri e vi facciamo parlare, cari ascoltatori. C'è chi lavora oggi mezza giornata, vabbè, dai, giusto. Auguri a tutti, inizia il turno al 118, Alberto. Alberto, ti mando un abbraccio, voi siete i più preziosi, i più straordinari, quelli che lavorano al 118, in questi giorni. Beh, davvero, mi tolgo il cappello che non ho, ma idealmente me lo tolgo, Alberto, nei tuoi confronti di tutti i tuoi colleghi. C'è chi ci scrive, sono in pista dalle 3, buon Natale da Claudio. Altri ascoltatori, ci siamo, sono appena arrivato a Monopoli e sono di Sant'Eramo in Colle, zac, così. Pietro da Roma, Anacleto da Salerno, dalle strade di Abbiategrasso, auguri, ma siete tantissimi, è straordinario tutto questo, le 6:32 minuti e sì, ci siamo anche oggi. Poi da domani io ritorno il 7 gennaio, Fate i bravi se potete. auguri ovviamente anche a tutti noi. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia. What have we done? E dai, continuiamo così, insomma, clima natalizio. Another year over, a new one just begun. So happy Christmas. Con chi potevamo passare la vigilia di Natale? Intanto con un uomo che vive il Natale dal di dentro, porta anche addosso anche lui un po', come tutti noi, una croce, la croce. L'uomo che ama questa canzone più di tutti gli altri e soprattutto quest'altra canzone. 1899 è la data che tengo a memoria. AC Milan uguale vittoria. In Europa si è fatta la storia. È il nostro Marione Adinolfi. AC Milan vuol dire vittoria, me l'ho perso il testo. E perché no? AC Milan uguale vittoria. Senti come suona meglio. AC Milan uguale vittoria. Che poi non capisci che a Roma AC Milan, cioè sono proprio capito in maniera diversa. Un saluto ai nostri radioascoltatori, cioè, psicopatici e solitari, che hanno bisogno proprio di sentirsi un po' d'affetto intorno. Ma guarda tu dovresti vedere i messaggi da Norimberga, ci sta ascoltando Michele, dovresti vederli. Di tanti poi vedo, da Norimberga. A Sassuolo, forza Sassuolo, ci scrive Giulio, dovresti saluti da Porto Oli Minerali Trieste, una guardia giurata, cioè, ci stanno scrivendo da tutta Italia. Tutto il scrivono? Questa è la perché io gli ho detto loro diteci che siete lì e loro ci dicono eccoci, cioè, qui un pifferaio magico qui senti, ma no le sveglia alle 6:30 mi mettete pure a scrivere come i più tizi del mondo, Poi guarda qua, mica da paese, cioè da grandi città, ma anche Nicola da Migliavacca ci scrive, da Migliavacca, vuoi mandare un saluto a Migliavacca? Nicola, c'è la vita, lascia perdere. No, mamma mia, mamma. Ma perché scrivete a una radio? Che cacchio di senso c'ha? Vabbè, Maria Giovanna ci scrive da Vicenza. Guarda, c'è questo. Marito, Maria Giovanna. No, ma smettila. Maria Giovanna sarà una persona meravigliosa, io lo so già, lo so già. Magnavacca, peraltro, non Migliavacca, Magnavacca. Si è corretto. Magnavacca. Allora, c'è chi ha puntato la sveglia per l'ultimo Parlamento del giorno, Questa in ferie ho puntato la sveglia per ascoltare. Sono malati di mente. Poi scrivono, capito? Allora, dai, apriamolo questo Parlamento. Adesso è l'ultimo Parlamento del giorno. Tra l'altro, Mario Adinolfi, cioè, non è che sei solo, ma insomma, dobbiamo attendere un attimo perché certo che si è svegliato. Quello di Migliavacca, questo è sorpasso. No. Oggi vi vogliamo lasciare anche questo Natale con una grandissima sorpresa, perché l'abbiamo strappata, un po' rubata in questo momento dall'etere, da dov'è? Da tutti i pazzi per RDS, è lei e torna con noi, Rossella. Adesso costa Rossella Brescia, una cosa assurda. Ma proprio c'hai dei gusti di donne schifosi. Ma no! Se tua moglie, no, quante botte ti darei? Ma no! Fino ad un Milan. Rossella Brescia! Beh, guarda, come accoglienza niente male. Mamma mia, grazie. Come stai? E guarda, ho questa voce un po'... o da trans o da miciona, decidete voi, non lo so. Non lo so, forse Marione scegliamo la miciona. Ci piace di più. Sì. Non mi fate ridere. No, ma tu puoi fare tutto. Quella voce lì puoi fare tutto e puoi dire tutto. Allora, la nostra Rossella Brescia, un po' nostra, ti sentiamo, anche se sei in onda, no? In questo momento. Adesso sì, adesso c'è la... sono con voi, ho detto vabbè, che faccio nella pubblicità, vado da Milan un secondo. Certo, capisci, cioè, capito Mario, così si fa. Alessa nel frattempo facendo un'altra trasmissione. Certo, è in onda con tutti i pazzi su RDS. È malata pure lei, ma perché sei in pubblicità che faccio, ma diventa da Milan. ma non trovi Marione questa cosa straordinaria? No, ma infatti è meravigliosa. Ma soltanto alla radio si può fare una cosa del genere. Ma tu ti rendi conto? Ma lui no, è un uomo vecchio, ma un uomo di RDS, non si incavolano, non gli dicono, non si può fare. Ma no, ho chiesto il permesso, chiamo Milan. Una brava ragazza, la fine, ma io sempre, correttissima. Sì, ma certo, esatto. Ma certo, abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni, sono arrivate, bolli, papali, cose, anche il Milan Vaticano. Milan ha scritto tipo 100 mail e quindi alla fine hanno sentito un po' tutti. Esatto, la prima volta che è successo mi ha chiamato a Pettinelli a dire... Vabbè, vuoi... Ma cos'è sta storia che vuoi la Brescia in onda? Cioè, un po' anche, come dire, coglievo come un mai? Pochino di, come dire, di un po' di gelosia, ecco, non vorrei dirlo. Ma vabbè, no, vabbè, vabbè, vabbè. Allora, sempre Eva contro Eva, tutta la vita. Eccoci qua. Allora, devo dire subito una cosa. Ah, tu Rossella, quando ci devi mollare dici, devo andare un attimo in onda. Okay, cioè, sei bene, in onda, ma dici, devo andare esatto, in onda. Esatto, un attimo. Allora, io ho preso in giro per 3 giorni Roma perché vi bloccavano il traffico. Ecco, hai visto cosa ti è successo che adesso? Che hanno fatto, mi bloccano il traffico a Milano, proprio un disastro. Però dai, dal 28 al 30 dicembre a Milano, dai. Infatti, ma ci sarà provvedimento più inutile? Io no, confidavo... Ma poi scusate, a Milano i mezzi funziona tutto, quindi voglio dire, anche se ci sta questo stop delle macchine, che cosa cambia? Chi poi se ne frega, no? Sì. Milano è più piccola rispetto a Roma, però io confidavo molto in... Tronca, sai che bisogna, Marione, anche te, sai che bisogna dirlo così, è tronca, un po' in maniera tronca. Tronca, esatto. Siamo sulla stessa linea io e Marione, allora. Tu tanto Marione i mezzi già li usi, prendi il tram tutti i giorni. Io non ho la macchina, non ce l'ho. Cioè, ah, non hai la patente? No, ho la patente ma non la macchina, ho rottamato tutto, mi sono rotto le scatole. Ma tu pensa, e come fai ad andare in giro fuori Roma? Noleggio, 15 euro al giorno, una cosa meravigliosa. Quindi la usi, cioè non è che... Quando vado fuori Roma è necessario, insomma la uso. Però treno, che è una cosa molto bella, il treno dei desideri, come si dice, si va e non c'è nessun problema. Va bene, che devi fare? Però, ma che ne pensate? Per me sono i provvedimenti più inutili del mondo, quelli del blocco del traffico, solo a fare innervosire la gente che già è abbastanza nervosa. Rossella, tu come li vedi quando i romani? Però se c'è bisogno uno deve fare un po' tanti tentativi, perché a Milano per esempio so che ci sono dei problemi di smog non indifferenti, anche a Roma non piove da tanto tempo, quindi... voglio dire, se uno deve farle, le fa le cose. Ovviamente, se uno può aspettare anche 2 o 3 giorni, magari ci fa anche piacere, perché questo è un periodo un po' così per noi, perché è un periodo natalizio, sì. E uno esce, si fa le sue cose, insomma... Vuol girare, eccetera, ecco. Come dire, se vuol prendere la macchina, se vuole andare. Ma voglio chiedervi un giudizio però su questo tronca, dopo Marino. Marino, a te piaceva molto, Rossella, so che piaceva. Mi piaceva tantissimo proprio Marino, mamma mia. Sicuramente una brava persona, ma come lo può essere mio papà, la mia mamma, quindi voglio dire, non è che uno fa il sindaco perché è una brava persona, si dice così, è una brava persona. Ti manca te, Marione, il buon Marino? No. Hai visto? Ma sto tronca, ma sta facendo qualcosa? Cioè, si vede il prodotto dell'arrivo di un... Che vuoi vedere? Ma Roma è Roma, ragazzi. Però adesso è un casino comunque. Roma, quindi qualcosa stanno facendo. Non so se per l'effetto... Ho capito, ma Roma che vuol dire? Roma è Roma è come dire, ma lasciatela così. Lasciatela così. È bello quando vi sento dire qui i mezzi funzionano, provate a fare il giro sui mezzi pubblici romani, fate la lotteria della metropolitana, se oggi si sta campandello, se si ferma qualcosa, se parte, se non parte, se hanno voglia di fare il gioco, ma è così, è ingovernabile. Va bene il prefetto che sistema tutto, non lo so. Adesso bello abbiamo... che fra poco facciamo pure la campagna elettorale, come sarà divertente qua. Ah, che bello, eh. Oggi però almeno in campagna elettorale qualcosa succede. Eh sì, eh sì, almeno un po' di promesse, un po' di promesse. Oggi c'è un'intervista a Casaleggio sul Corriere della Sera che dice: prenderemo Roma per il primo passo per andare poi al governo. E quindi insomma il Movimento 5 Stelle vuole vincere al comune di Roma. Oh, voglio subito innervosire Mariola Di Rolfi. Oh, no, dai, ecco, Natale, oh, è Natale, è Natale. Guarda la Brice, digliela la Brice. No, della coppia gay, la diglia a lei, la confitta lei. Ah, ho capito, no, no, cosa vuoi introdurre. No, no, io non ho capito, ma voglio leggere questa notizia. Eccolo qui, la sentenza del Tribunale di Roma. Anche due lesbiche che hanno una bambina sono una famiglia. Ripeti con noi, Mariola Di Rolfi. Famiglia. Famiglia. Va bene? Lo ha deciso un tribunale. Un giudice. Sì. Che ha sentenziato contro la legge. Tant'è che il Parlamento si sta discutendo di questo argomento. Ora dico, se in Parlamento si sta discutendo della stepchild adoption, come fa un giudice a legiferare sulla stepchild adoption? Lo so, perché si sono rivolte al giudice. Ma sono due mamme. Non esistono le due mamme, la mamma è una sola, lo dice il proverbio popolare: mamma c'è una sola, è inventate le due mamme. Due è mamme. Un gioco di società, povera bimba, chi è il papà di questa bimba? Non si sa. È il papà, non c'è, come tante bimbi che non hanno il papà. Capita. Se non avevi il papà, ho capito, capita. Sapere chi era tuo papà. Sì. Vabbè, il papà è un donatore. Niente. Donatore a pagamento. Però se questi strani doni, come se Babbo Natale chiedesse i 3.000 euro, capito, per portare i regali. Vabbè, è donatore. Non lo so. Rossella, è arretrato il nostro Mario. Che dice? È arretrato. Pensa come se stessero da due zie. Tante volte succede che tanti bambini vengono cresciuti dalle zie. Si chiamano zie. Queste mamme. Alla fine della fiera manca ovviamente la parte maschile, perché manca. Per esempio, Hugh Grant in 4 anni, 4 figli senza mogli. Voglio dire, cioè, è meglio lui o è meglio un nucleo familiare dove c'è amore, dove si può veramente insegnare qualcosa di positivo a un bambino? Capisci Marione? Si è arreso, ci voleva Rossella Brescia per farlo arrendere. Ci voleva l'amore. Poi ci sa che sull'amore io mi tenerisco subito. L'amore. Vedi. Ci voleva Rossella Brescia. Dovevamo arrivare alla vigilia di Natale, convocare Rossella Brescia per fare alzare le mani all'indifesa Mariona Di Rolfi. Non ci posso credere. È crollato tutto. Grazie per questo regalo di Natale. Si è arreso. Non replica. RDS questa. No. Ti vuole cacciare. No. Ma senti un po', tra l'altro, Rossella. Pintinelli, vuoi chiamare? Dice, ma non sei in onda. Non sei in onda. Finisce mai. C'è la pausa pubblicitaria più lunga d'Europa. Tra poco vi lascerò. Ecco, allora, tra poco ci lasci, ma poi ritorni prima delle 7 o no? Ritorno, che approfondiamo. Ritorno. Allora facciamo così. Il mio obiettivo è convertire Di Rolfi. Perfetto. Convertire è bellissima questa cosa. Allora, noi andiamo al traffico, alla segreteria. Tu, Rossella, torna pure a lavorare nuovamente come stai facendo qui. Però ricorda, lo dico a te, lo dico a Mario, che ci sarebbe il selfie da mandare. Sai che noi Ma io sono già uscita di casa, però. Mandaci una foto di RDS, mandaci una foto. Vabbè, manda quello che vuoi. Oddio, vabbè. Se ci mandi un selfie a noi non dispiace. Noi lo mettiamo su Twitter. Anche te, Mariano Di Rolfi, dovresti mandarci una foto. L'hai mandato? Ti ricordi? Ho mandato tempo fa. No, ma tutte le volte che sei in onda devi mandare. Tutte le volte mandare il selfie, certo. C'è il traffico, che quindi hai tempo. Rossella, ti riaspettiamo qui. Vai in onda di là su RDS. Va bene. Ciao. Brum brum brum. C'è il traffico, Milan. Ciao Alino, anche oggi sono qui alle 3 del pomeriggio in Australia e penso a te, che sono le 5:30 del mattino in Italia, che ti deve alzare, deve andare a lavorare, mentre io sto qua sdraiato nel mio letto alle 3 del pomeriggio. Che goduria, che goduria, che goduria. Ciao Milan, debosciato che non sei altro. Io e la mia fidanzata siamo svegli dalle 4:30, ma per andare in ferie! Ciao Milan! Per me sei tanto antipatico che puoi far ferie tutto l'anno. Milan, fai schifo tu e tutta quella combricola che c'hai di cose là al mattino, va bene? Tu basta attaccare il PD, deficiente. Signor Milan, noi non abbiamo capito troppo bene, ma tu se vacanze di Natale fatica o non fatica? No, perché se no facciamo mettere l'armi in pace, è fresca, non è passato buono, se tu te ne vai la mattina ci abbandona, quindi date una regolata. Oh Milan, sono Fiorentino, anche se mi stempo sui coglioni, buon Natale a te e tutta la tua famiglia, ciao. Grande Fiorentino, anche a te, anche a te, ci stiamo reciprocamente un po' su coglioni. No, ma tu non mi stai su coglioni, per esempio. Però un buon Natale, un grande abbraccio. Hai sentito, Marione, dall'Australia? C'è un gruppo di latitanti che ti seguono. No. L'associazione dei latitanti italiani. Cioè. No, perché no. Mi dici sempre da Monte Carlo, dall'Australia, chi se ne frega? Ma perché mi scrivono? Qui. Mi scrivono, sì. Ci fanno non sentire vicini. È penosa. Cioè, allora mi scrive in vacanza con la fidanzata e ti telefona a te. Hai sentito? Stiamo andando in vacanza con la fidanzata dietro. Con la fidanzata, ciao. Curatevi da uno bravo. Smettila, che sono il nostro pubblico. Sono il nostro. Come faremmo senza? Oh, mannaggia, ma sai che ci sono ancora quelli. Mariona Di Rolfi non ti manda il selfie perché non ci sta nello schermo. Ma queste cose veramente da terza elementare. Mamma mia. Che fai? Lo dici in diretta? Lo vuoi istigare alla ciccionofobia? Ma no, ma che la ciccionofobia? Ti ricordi d'altronde quando ti chiamavano e tu stesso ci hai detto? E Mario Di Rolfi, sì, a ciccione di merda! Ecco ma qua. Io replicavo al pubblico con la citazione di Nanni Moretti. Pubblico di merda! Certo. È molto natalizio. Certo. Pubblico di merda! Eccola lì. Pubblico di merda! Vabbè, la citazione di Moretti. Allora, che dire, qua si avvicina il Natale, caro Marione, i bilanci. Quale sarà la notizia del 2016? Diciamo questa cosa da parte. Il referendum costituzionale, di cui tu non capisci niente, sì, ma è la chiave centrale del 2016. Ma ti chiamerò per spiegarcelo. Spiegherò tutte le chiavi interessanti. Tutti adesso ci affanneremo sulle amministrative che racconteranno. Sì. Tu racconterà il referendum di settembre, forse ottobre. Sì. 2016, che sarà l'architrave. E sarà ottobre, no? Appunto. Sì, a ottobre. Esatto. Vedi quindi che segnate già. Per 9 mesi, potete cazzeggiare e poi succede qualcosa. Quindi a settembre, tutti i giorni, Adinolfi ci farà il punto su a settembre. Faremo educazione civica per questo paese di sconci, esatto, che non capiscono nulla di quello che sta accadendo. Hanno cambiato una sessantina di articoli della Costituzione. Certo. Vabbè, uno dice: non è che il prossimo, non so, il prossimo presidente degli Stati Uniti potrebbe essere. Notizia, no. Non hai idea di quanto sarà importante questo referendum, quanto cambierà l'Italia. Finalmente avrai la seconda repubblica e potrai dire è la seconda repubblica. Ah, no, perché dopo non siamo già nella terza. 5 anni, hai pensato che stavi nella seconda e nella terza. Ma se avessi studiato un minimo sapresti che per arrivare nella seconda repubblica o nella terza ci serviva un cambiamento Mi sembra giusto. Ti faccio sentire Monsignor Segalini. Chi è Monsignor Segalini? Grandissimo vescovo di Palestrina, figura. Una brava persona. Che non si è accorto che c'era Sciauchi accanto, infatti. Sentivo che a un certo momento c'era Sciauchi a fianco, il PD, onorevole del PD. Non si erano mai visti insieme Francesca Immacolata Sciauchi, che è stata io ho detto l'onorevole Sciauchi, ma chiaramente è Francesca Immacolata Sciauchi. Ah, sei tu, ma dai, che la conoscevano tutti in Vaticano. La conoscevi in Vaticano, vabbè, conoscevano tutti in Vaticano e fuori, come sai, sopra il Vaticano c'è stata una terrazzata, diciamo così, organizzata da Francesco. Hanno partecipato tutti quelli che oggi fanno finta di non ricordarsi. Ovviamente è una PR, come immagini una PR a Roma, una PR. Pubbliche relazioni. Vabbè. Tu ti sei chiesto come ha fatto arrivare così in alto in Vaticano, una così? Cioè una Roma così, è una luogo così. Roma è il luogo dove ma si fa in Vaticano, bene le PR. Dal Papa, nominato dal Papa. Roma per eccellenza, insomma. E quindi La romanità eccellente è Roma. È Roma all'ennesima potenza, esatto. All'ennesima potenza, insomma. Che devi fare? Vabbè, ma invece Roma, questa cosa di Casaleggio che dice conquisteremo Roma, ti può sembrare plausibile? Guarda, questa cosa mi sembra molto curiosa. Io sono convinto che il 5 Stelle abbia serie possibilità di vincere le elezioni. Mm-hmm. Però fanno le solite errori di non focalizzarsi sul candidato, hanno queste strane regole. Sì, sì. Candidassero Alessandro Di Battista, secondo me vincerebbe al primo turno. Vabbè, cioè, ma sai che Di Battista. E adesso che fanno? Inventano un signor nessuno, gli fanno fare la campagna elettorale così. Basta, mi sembra un po', francamente, l'idea. Alcune volte il 5 Stelle mi sembra molto impolitico. Se avesse, diciamo, il coraggio di fare un'operazione politica seria, cioè vogliamo prendere Roma, allora candidano uno che no. Che si candida con una, diciamo, un'ondata anche forte dal punto di vista mediatico, se vincerebbe molto agevolmente. Sì, la candidatura dello sconosciuto, se vuoi, si ritrova. Rischia di far, ma secondo me vogliono perdere in maniera onorevole, perché governare Roma, come hai detto te, è meglio non governarla. Sì, comunque, ci scrive anche Gianluca da Lucca: sono presente, sto andando in cartiera, come vedi. Ma è tornata Rossella Brescia, eccola qua, eccola, ecco, Marione. E ricomincia la pubblicità. E ricomincia la pubblicità. Oh, quanta pubblicità fanno RDS, sì, ma che. Che bella questa cosa, che bella. Ho messo un brano musicale natalizio, ho messo una sequenza, sì, per voi, sì, Adeste Fidele, se il pubblico di RDS tutto in massa, sì. Leti triunfantes, la cantano in latino, no. Ho visto che le avete messe voi un paio di canzoni, sì, però non Adeste Fidele, se sono un po' di Per Rock, quella roba, diciamo, laicista che piace a Milan. Ecco. Mamma mia, ragazzi, ma perché non vai a fare il direttore a Radio Maria? Ti candidi? Ho il programma a Radio Maria. Certo che, beh, non avevamo dubbi. Non avevamo dubbi. Io di un vento leggero, tra gioco. Ma Rossella, tu lo vedi bene? Marione, Fra Marione. Don Marione è meglio. Don Marione sta benissimo. Don Marione. Proprio. Bisogna convincere mia moglie. Chi non ha avuto mai un Don Marione nella vita? Chi non ha mai incrociato un Don Marione? Però vorrei sapere la domanda fondamentale che mi porto da tre giorni, da quando ho saputo che Rossella Brescia poteva concedersi oggi, ed è questa: come mai hai la voce da miciona? Come ti è venuta? La voce da miciona perché, che ne so, mi sono raffreddata, mi sarà attaccata qualche bestiaccia alla faringe, che ne so. Sono cose che capitano. Il radio poi è come se tu prendi una storta che stai ballando e lo so. E tu ne sai qualcosa, perché sarà esatto, purtroppo capitato. Questo. Sarà purtroppo capitato. Vuoi augurare? Io vi devo salutare. Allora augura buon Natale da miciona, proprio. Dai, che cavolo è sta cosa? Buon Natale. Radio 24 non può fare questa cosa. Va bene, Rossella, ti abbracciamo. Ti auguro un buon Natale a tutti. Sei Marione, stata anche a te, anche a te. Convertiti, ciao, Rossella, convertiti. Ciao. Grazie, ciao, Rossella Brescia. Davvero un abbraccio grosso. Ciao, torna tutti grazie. Pazzi per RDS, perché ti aspettano di lì in onda. Un saluto e a tutti i ragazzi in regia. È certo. Ciao. Volano bacini dal di là del vetro. Adeste Fidelis, grande l'Alpino, grande l'Alpino, bravo. Bravo, Bescapè. Pompa Adeste Fidelis. Ce n'è una versione un po' metal? Ci dobbiamo lasciare. Venite ad Oremus. Io un saluto da Micione, non te lo so fare, però insomma, vabbè, buon Natale. Ce l'hai mandata la foto? No, non ve la mando la foto. Vabbè, ne prendo una. Senti questo Adeste Fidelis versione rossoneri guerrieri. No, la tragedia. Tra l'eterno e il contemporaneo, lo senti tragico, lo senti tragico. Vabbè. Marione, noi ti ringraziamo. Auguri anche a te, ovviamente. Il 7 gennaio io riprendo per rispondere al nostro amico napoletano. Sì, abbandono. Il Parlamento non c'è, non ci sta. Ritorna il 7 gennaio. Ma va. Al 7, buon anno. Mi spiace Brescia, ma io amo il Milan. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza cari italiani, cari amici stranieri, cari italiani che ci ascoltate da tutto il mondo. È la vigilia di Natale, sono le 7:17 minuti e siamo qui in diretta, poi io mi fermo fino al 7 gennaio, riprendo il 7 gennaio. Ma insomma, la programmazione di Radio 24 continua, la rassegna stampa, ci sarà Oscar Giannino che continua da solo e poi si riparte tutto come prima. Allora, siamo pronti a leggere i giornali? Sì, voi siete con noi, scriveteci ancora al 349-238-6666 se siete svegli, se siete al lavoro. Tantissimi prima ci hanno scritto alle 6:30 a dire: ma come no, siamo qui, i pasticceri, i fornai, guardie giurate, persone comuni, gente che sta andando in vacanza, gente che ci ascolta dall'estero, una tribù smisurata. Evviva così, dai, andiamo a leggere i giornali. C'è bisogno di dirlo, lo sapete, è il 24 dicembre, la vigilia di Natale è giovedì e i titoli: Il Sole 24 Ore apre con il no di Bruxelles al piano Tercas, uso del fondo e aiuto di Stato, l'Unione Europea che dice sulla cassa di Teramo il salvataggio non va bene, è lo scontro con l'Italia. Così anche il Corriere della Sera: banche, duello con l'Europa. Repubblica mette anche un'altra vicenda, banche e acciaio, scontro con l'Unione Europea, l'Italia ha processo per gli aiuti all'Ilva, quindi Repubblica mette anche questo nuovo fronte, oltre alle banche anche lo scontro sugli aiuti all'Ilva per l'Unione Europea. Italia Unione Europea sfida sulle banche è il titolo di apertura del Messaggero. Banche, rissa tra Italia e Unione Europea è il titolo del Giorno. Come vedete il clima è questo. Mentre banche, nuovo scontro con l'Unione Europea, apre così il Secolo XIX. Per la Stampa invece, dopo 33 anni l'autosole raddoppia, la inaugurazione della variante di Valico nel tratto appenninico. Così anche per l'Unità è il titolo principale, passato il Valico. Libero invece: le azioni di papà Boschi vendute prima del crack, lo scandalo Banca Etruria. E il Fatto Quotidiano: Etruria, Boschi salvata dalla legge di Berlusconi. Il Giornale invece: c'è stata una truffa, la nuova accusa per l'Etruria, il PM indaga sui raggiri dei risparmiatori. Allora però, cari italiani, cari ascoltatori, cari amici di 24 mattino, da giorni prendevo in giro i romani dicendo: arriva Tronca e vi mette lo stop del traffico. Chi di presa in giro ferisce, di presa in giro perisce. Ed ecco allora che lo stop al traffico è arrivato, per ora, ma per ora a Milano. Dal 28 al 30 dicembre veicoli bloccati a Milano contro lo smog, e tra l'altro Pisapia auspica che questo facciano anche i comuni dell'Interland milanese, se no già il provvedimento per me è una vaccata tremenda, sempre e comunque, visto che la gran parte del traffico è dato per esempio dalle caldaie e dalle case, dagli uffici dove le temperature sono di 42 gradi con le mangrovie che crescono sentendosi in climi, tropicali. Quindi questo è il problema principale, non le macchine o i mezzi pubblici. Ma noi siamo in Italia e dobbiamo quindi fare questi provvedimenti spot per far vedere che qualcosa si fa. Per non far nulla, l'Italia contro lo smog, Milano ferma le auto, Roma però pronta a imitarla. Pisapia dice: da lunedì per 3 giorni 6 ore di blocco del traffico. Poi guardate bene, 6 ore per 3 giorni e il problema dello smog si ridurrà drasticamente, sì sì. Comunque il capoluogo lombardo rompe gli indugi, racconta il Corriere: da lunedì scatta il blocco delle auto, 6 ore al giorno, dalle 10 alle 16 per 3 giorni. E vabbè, avevo preso in giro Roma, ma comunque anche guardate che anche Tronca sta pensando di fare la stessa cosa a Roma, quindi Roma per ora medita, però a Roma siete sempre un po' più lenti, così meditate, dai, si fa per scherzare, non iniziate a scrivermi tutti inaciditi che è la vigilia di Natale. Allora, a proposito di traffico, beh, ieri Renzi ha incassato questo bagno di applausi per l'inaugurazione della variante di Valico. È un nuovo tracciato da 32 km, Giorgio Costa, inviato al Pian del Voglio per il Sole 24 Ore, racconta anche tutti i dettagli di quello che è il tratto alternativo alla A1. Certo, tutti abbiamo fatto notare che proprio nel giorno in cui c'era l'inaugurazione del variante di Valico, ieri c'erano 12 km di coda proprio in quel tratto sulla A1, ma l'obiettivo, dopo 33 anni di lavori, è che in qualche modo tutto ciò sia il passato. Abbiamo sconfitto i profeti del tanto non si farà mai, dice Renzi, togliendosi un sassolino dalla scarpa, racconta il Sole 24 Ore, premendo così il pulsante rosso che accende le frecce verdi sulle tre corsie di asfalto che risolvono l'annoso problema dell'attraversamento autostradale dell'Appennino tra Emilia Romagna e Toscana. 32 chilometri di nuovo tacciato, costati 4,1 miliardi, oltre la metà in galleria, altezza massima di 490 metri contro i 726 della 1, un tracciato più corto di 3 chilometri e per tutte queste ragioni la stima è di risparmiare il 30% dei tempi di percorrenza con risparmio di carburante valutabile attorno ai 100 milioni di euro l'anno. Si stima che il 90% del traffico pesante e il 40% delle auto sceglieranno percorrere la variante di Valico rispetto alla 1, visto che c'è la scelta, no, di poter andare o di qua o di là. Vabbè, ci sono giornali che comunque attaccano questa vicenda. Renzi inaugura la variante ma non paga le imprese. La denuncia dell'ANCE finisce sul giornale. Lo Stato impiega ancora più di 5 mesi per saldare le aziende e le fatture. L'associazione dei costruttori che dice questo. Mentre Libero dice vabbè, la variante di Valico e c'è la coda. Insomma, questa è senza dubbio una svolta positiva per tutti coloro che passano lì, e attendiamo e speriamo davvero di capire che non ci siano più code. L'Italia davvero da questo punto di vista un po' si accorcia e si avvicina. Allora, la notizia invece che abbiamo commentato anche prima un po' in maniera anche giocosa, una notizia in realtà molto seria, con Mario Adinolfi, è quella della sentenza della Corte d'Appello di Roma, che conferma una sentenza del Tribunale dei Minori di Roma e che stabilisce questo: ora anche due mamme costituiscono una famiglia, due mamme per un solo bambino. E voi dite, ma come, la mamma è una? E come dice Mario Adinolfi, la mamma è solo una. Ma la sentenza della Corte d'Appello, che è oggi su tutti i giornali, conferma che una donna aveva il diritto di adottare la figlia biologica della compagna sposata all'estero in Spagna, e dunque ora c'è, secondo il tribunale, una famiglia composta da due donne, entrambe mamme, una biologica, una la mamma che ha adottato, e una figlia. Proprio nel momento in cui si discute in Parlamento di questa stepchild adoption, come viene definita, appunto la possibilità per il genitore non biologico di adottare il bambino del partner. Motivazioni chiare ed essenziali che confermano che in Italia il partner di una coppia omosessuale può adottare. Questo è il commento di Maria Antonietta Pili, che è l'avvocato che ha assistito questa coppia. In Italia la stepchild adoption è già possibile per le coppie eterosessuali sposate da almeno 3 anni e per i conviventi che siano coniugati al momento della richiesta. È preclusa però ai gay, per i quali non c'è il matrimonio, come sapete. Ma questa sentenza stabilisce invece ciò che in Parlamento non è stato ancora stabilito. E la vicenda finisce su tutti i giornali con il solito annoso dibattito. Coppie gay, dai giudici altro sia l'adozione del figlio del partner. Questo è il titolo dell'Unità, per esempio a pagina 6, ma anche Repubblica, anche Il Giorno, adozioni gay, la sentenza sì alla coppia di mamme. Il Messaggero fa addirittura 2 pagine, un focus, pagina 12 e 13, partendo da questa notizia, per raccontare che come cambia e cosa è cambiato nel concetto di famiglia negli ultimi anni. Dal divorzio breve alle adozioni, ecco come cambia la famiglia. Sul divorzio breve, sui nuovi criteri per i genitori affidatari, sul mantenimento, il tema che abbiamo affrontato ieri, cioè se non c'è chi versa il mantenimento all'ex coniuge, può intervenire lo Stato in base a questo fondo che verrà istituito e che è stato messo nella legge di stabilità. Tutte queste tematiche affrontate punto per punto a pagina 12 e 13 del Messaggero. Va bene, intanto è il momento delle vacanze. Io lo dico per me, visto che tornerò il 7 gennaio. E ci sono anche articoli che da giorni se la prendono coi parlamentari. Ah, anch'io allora me la prendo coi parlamentari. Io faccio solo, non so, 15 giorni. Loro 20! 20 giorni, ben 5 più di me. 20 giorni chiusi, baci e abbracci. Questo è il titolo di mezza pagina della stampa dedicata al Parlamento. Pagina 8. Il Premier recita l'anticasta rivolta ai parlamentari. Io lavoro anche in vacanza. Così Renzi ieri ha detto: prima degli auguri di fine anno, domani, cioè oggi, abbiamo un altro cantiere da inaugurare a Pompei. Noi lavoriamo anche nelle vacanze, come dire, invece voi parlamentari no. Il Giorno dedica due pagine a questo tema. Calciatori, politici, magistrati, Alessandro Milan, no Alessandro Milan nel titolo non c'è, calciatori, politici e magistrati, lunghe ferie ai viziati del Natale. Milan, grata qui, per in ferie. eccolo lì. Ah, sono un viziato del Natale, che ci volete fare? Sempre stato viziato, questo è così. E così, sono un vero viziato. E vabbè, che ci volete fare? Ma vabbè, eccoci qui. L'articolo però che vince il premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata, è quello di Sergio Rizzo a pagina 9 del Corriere della Sera, che racconta l'ennesimo mille proroghe. Sapete, quando sentite parlare, è stato approvato ieri il decreto mille proroghe. Uno dice: ma cosa vuol dire il decreto mille proroghe? Beh, lo dice la parola. Decreto mille proroghe è un provvedimento che rinvia, solitamente di anno in anno, scadenze che lo Stato ha fissato con legge, ma che non riesce o non può rispettare. In molti casi, racconta Sergio Rizzo, una clamorosa certificazione di inefficienza amministrativa, diventato però negli anni un comodo vagone sul quale caricare le marchette, certe carinerie anche ad personam, per cui non si è trovato posto nella finanziaria. Da dove origina questa parola? Beh, mille proroghe, secondo alcuni, racconta Sergio Rizzo, da un articolo della Stampa del 93. Pierluigi Franz scrisse: nel governo è entrato il ministro della proroga. Il ministro che non è mai uscito, aggiunge Sergio Rizzo. E allora c'è già chi immagina di piazzare nel prossimo mille proroghe una norma per garantire il pagamento del cosiddetto salario accessorio ai dipendenti del Comune di Roma, che altrimenti minacciano di bloccare la città il 27 gennaio, mercoledì di udienza papale durante il giubileo, e a lei. Ma poi ci sono questi provvedimenti nel passato. Sentite questo provvedimento, nel mille proroghe. Ascoltate bene, siete pronti, reattivi? Eccolo qui. Il termine di cui all'articolo 23,5 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29,11 ter del decreto legge 29 dicembre 2011 numero 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 numero 14 e dell'articolo 5 ter del decreto legge 26 aprile 2013 numero 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Chi ci capisce è bravo, ma come scrive Rizzo, non sono i normali cittadini che devono capire. Capisca solo chi deve. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Tanti auguri Milan, che te pozzino via fuoco, ciao. Grande, grande te pozzino via fuoco Angelino, anche te con la zappa da 7 kg me la porto in vacanza per zappare e arare Lucampo. Allora, dobbiamo parlare della disfida tra l'Unione Europea e l'Italia sul tema banche, ma non solo, c'è un fronte che Repubblica mette in evidenza tanto quanto quello delle banche. Allora, intanto le banche però. Beda Romano racconta, pagina 3, il doppio fronte con l'Unione Europea. Le vicende bancarie italiane continuano a provocare tensioni tra Roma e Bruxelles, mentre la polemica sulla recente controversa ristrutturazione delle quattro banche regionali resta d'attualità. La Commissione Europea pubblica ieri sera una attesa decisione sul salvataggio dell'istituto di credito Banca Tercas, dunque la cassa di Teramo. Secondo l'Europa, il governo in quella circostanza utilizzò denaro pubblico in violazione delle regole sugli aiuti di Stato. La Commissione europea, si legge, a seguito di un'analisi approfondita, ha concluso che il sostegno offerto dal Fondo interbancario per la tutela dei depositi a Banca Tercas costituisce aiuto di Stato incompatibile coi fatti e le circostanze a disposizione. Il comunicato è pubblicato anche a pagina 3 dal Sole 24 Ore, c'è il testo integrale della lettera inviata al ministro Padoan dai commissari europei Jonathan Hill e Margrethe Vestager il 19 novembre, ci sono anche tutti i passaggi principali, e così può essere usato il fondo in base alle regole europee. E quindi questo è il primo fronte, l'utilizzo di soldi pubblici per salvare la cassa di Teramo. Oggi riesco anche a parlare ogni tanto. Tra l'altro, tutti i giornali ovviamente aprono su questo tema. Per Repubblica c'è anche la reazione di Roma, una sorta di rabbia. La decisione è arbitraria e ingiusta. L'obiettivo è difendere il sistema creditizio tedesco. Queste frasi vengono attribuite al Ministero del Tesoro. Quindi, come racconta Alberto D'Argenio, non è che sono proprio frasi di Padoan, però vengono attribuite al Ministero presieduto da Padoan. Ma Repubblica apre, oltre alla questione banche, un nuovo fronte, un secondo fronte. E infatti il titolo di prima pagina è Banche e acciaio, scontro con l'Unione Europea, l'Italia processo per gli aiuti all'Ilva. Claudio Tito, a pagina 2 e 3, racconta la linea rossa tra Bruxelles e Roma diventata improvvisamente incandescente. Negli ultimi giorni i rapporti sono peggiorati. Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale sulla Tercas, ma poi c'è anche il caso Ilva. Sul caso Ilva, scrive Repubblica, il governo insiste nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che non si tratta di un semplice salvataggio, ma anche di un'operazione finalizzata al risanamento ambientale. E secondo l'esecutivo italiano, la disciplina europea prevede l'intervento pubblico in questi casi, in modo particolare in riferimento all'intervento siderurgico. È perché è arrivata pochi giorni fa, racconta Repubblica, la lettera formale con cui si preannuncia l'apertura della procedura di infrazione per i finanziamenti forniti all'Ilva, il documento firmato dal commissario alla concorrenza, sempre lei, Margrethe Vestager, e punta l'indice proprio sull'ultimo prestito da 300 milioni. Dunque, l'accusa anche per l'Ilva, come per il caso Tercas, è questo: aiuti di Stato. Tra l'altro racconta sempre Claudio Tito che dietro queste due partite, banche e Ilva, se ne gioca la terza, forse più importante, cioè Palazzo Chigi. Il governo italiano considera la più importante il via libera al deficit al 2,4% del 2016, una soglia che non è stata preventivamente concordata con Bruxelles. E il negoziato di settembre-ottobre aveva prodotto per l'Italia l'ampliamento dei margini fino al 2,2%, ma c'è questo 0,2% in più che espone l'esecutivo italiano al rischio di un'altra procedura di infrazione, sarebbe la terza nel giro di poco tempo. Insomma, Matteo e Angela, leggasi così per identificare Angela Merkel, questo sarebbe il fronte nuovo con cui iniziamo il 2016. E, c'è chi mi chiede: ma perché non provi a chiamare Mauro Meazza in diretta, gli facciamo gli auguri? No, dai, no, non vogliamo essere così crudeli, lo lasciamo alle sue ferie da debosciato. Il buon Mauro Meazza, tra l'altro, ormai ieri ero qui al bar del Sole 24 Ore. È arrivato, si è avvicinato una persona esterna, mi fa: mi scusi, io prego, sa mica che Meazza sono? Ormai, no, Peter Bescapè non ci crede. Lorenzo Nespoli, che era con me, dice: tutto vero, confermo, è successo questo. Ormai stiamo diventando una macchietta, ma è, come detto, è l'obiettivo quello di buttare via una brillante carriera ultra decennale nel giornalismo italiano di Mauro Meazza. Scherzo, si fa per scherzare, ovviamente l'importante è sempre l'ironia e il sorriso mentre parliamo di cose importanti. Comunque, sempre per il caso banche, beh, ieri un assist al ministro Maria Elena Boschi lo ha dato l'antitrust, perché l'autority, rispondendo a una richiesta esplicita del Movimento 5 Stelle, dice: non c'è conflitto di interessi da parte del ministro, nessuna alterazione del mercato. Rispondendo a una richiesta del deputato del Movimento 5 Stelle Di Battista, Maria Elena Boschi, dice l'antitrust, non ha alcun conflitto di interessi sulla vicenda del salvataggio di Banca Etruria, perché secondo l'antitrust Boschi partecipò solo alla riunione del Consiglio dei Ministri del 10 settembre, quando fu approvato uno schema preliminare del decreto legislativo 180 di recepimento della direttiva europea, mentre poi il ministro non partecipò alle riunioni del 6 e 13 novembre, le quali il governo esaminò e approvò il decreto. Sul tema banche, peraltro, c'è uno sviluppo dell'inchiesta sulla vicenda del suicidio di Luigi D'Angelo, 68 anni, sapete, il pensionato che ha perso tutto in Banca Etruria e si è tolto la vita. Ebbene, secondo i procuratori che indagano, lo raccontano tutti i giornali, fu modificato il profilo di rischio relativo agli investimenti di Luigi D'Angelo poco prima che lui si togliesse la vita. Quindi il livello di affidabilità sarebbe stato alzato per giustificare l'investimento ad alto rischio, che dovrebbe essere invece consigliato solo ai clienti istituzionali o comunque a chi è esperto nella materia. E ora l'ipotesi dunque è truffa su cui si indaga. Truffa. Sulla vicenda banche, peraltro, il ministro Franceschini, tirato ieri in ballo da Libero, risponde prendendo carta e penna e scrivendo proprio al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ieri Belpietro su Libero scriveva che Franceschini, lo scriveva con Franco Bechis per la verità, il vice direttore, che Franceschini ha delle azioni in Cari Ferrara e il nonno e il padre sono stati amministratori di quella banca. Ebbene, scrive il ministro alla cultura a pagina 6: caro direttore, leggendo Libero sono stato per un po' indeciso se farmi venire il nervoso o il buon umore. Rileggendo questa straordinaria prova di giornalismo d'inchiesta, le cui fonti sono le mie pubbliche dichiarazioni patrimoniali e Wikipedia, ha prevalso il buon umore. Non poteva essere altrimenti, riguardando addirittura una prima pagina dedicata a inquietanti scoperte, fatti terribili. Mio nonno nel 28 da avvocato è stato liquidatore della banca di piccolo credito, mio padre è stato consigliere della Cassa di Risparmio di Ferrara, infine io ho effettivamente azioni della Carife, poche, 300 esattamente, come risulta dalla mia dichiarazione pubblica. Non mi resta che chiedere a Libero un consiglio. Sono stato pizzicato. Debbo dimettermi o direttamente costituirmi? Insomma, chiede con questa evidente ironia Franceschini. Risponde Franco Bechis: ci spieghi cosa ha da ridere a chi ha perso ogni cosa? Come mai prende le distanze dalla Boschi, che ha sempre difeso? Insomma, Libero insiste in questa polemica con il ministro Franceschini. A proposito sempre di reazioni alle banche, alla situazione banche, Renzi nel consueto retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 5 del Corriere, in cui filtrano le frasi di Renzi senza che sia un'intervista, ma sono frasi attribuibili a lui, nella classica formula: Renzi ai suoi dice stiamo andando bene, i sondaggi non sono negativi, la gente è convinta che la responsabilità di quello che è successo sia soprattutto delle banche, non nostra, insomma abbiamo reagito con uno splendido contropiede. c'è malumore che non sa dove sfogarsi, c'è gente che sente di aver perso potere, so che c'è chi aspetta ogni occasione per darmi addosso, quella delle banche era quella buona, ma si rassegnino, stiamo andando avanti alla grande, quando ci attaccano diamo il meglio di noi. Questa è la sensazione di Matteo Renzi dopo questa vicenda banche. Parla invece Gianroberto Casaleggio, lo fa raramente, però ogni tanto concede qualche intervista, è un'intera pagina, pagina 11 del Corriere della Sera, imprenditore, fondatore, descritto come stratega del Movimento 5 Stelle, intervistato da Emanuele Buzzi, il guru 5 Stelle, il titolo è questo, vogliamo vincere a Roma, è la prova prima del governo. Intanto una stoccatina a Di Maio. Grillo una volta ha detto che le somiglia, si rivede in lui e sentite che risponde Di Maio, un po' sì, ma alla sua età mi occupavo di altro, facevo il progettista software all'Olivetti di Ivrea. Io ci leggo per forse per come ho, se ho capito bene come Casaleggio, come dire, io lavoravo, sì, veramente, facevo il progettista software all'Olivetti di Ivrea, all'età in cui è Di Maio vicepresidente della Camera. Comunque, Roma, noi vogliamo vincere. È una tappa obbligata prima del governo, un banco di prova. Se avessimo paura di governare Roma, non potremmo neppure pensare di voler governare il paese. Le priorità per il rilancio dell'Italia, dice Casaleggio, innovazione, istruzione, eliminazione della corruzione, diminuzione del livello di tassazione e contemporaneamente una seria lotta all'evasione. Etica. Questi i punti. Sul candidato a Roma abbiamo identificato 10 aree di intervento per la città di Roma, la cui priorità sarà decisa con votazione online. Sulle prime tre interverremo immediatamente dopo le elezioni. Da qui partiremo per un percorso di partecipazione che si articolerà sia online sia in incontri, in cui iscritti, comitati di quartiere, associazioni, organizzazioni attive sul sociale si confronteranno. E poi parla di che cosa? Un buon accordo sulla consulta, dice lui, frutto di confronto da parte nostra chiaro e trasparente con le altre forze politiche. E ancora parla alla fine del suo libro, quel suo libro che sull'unità ha fatto molto scalpore, in cui, mi scusi, ma lei prevede per il futuro ipermercati rasi al suolo, rieducazione forzata, gogna pubblica, stop alla caccia, chiusura per parrucchieri e macellerie, ministeri della pace. E Casaleggio dice, quello che lei cita sono provocazioni, non è un programma di governo, però chi non vorrebbe un ministero della pace? Internet non è la panacea per tutti i mali che affliggono la società, ma bisogna prendere atto che cambia la realtà e gestire il cambiamento piuttosto che subirlo. Così Gianroberto Casaleggio, guru del 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera. È il momento. Traffico! Massima di Confucio. Ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Alessandro Milan, il Bonobox dell'informazione. One love, grande. One life, when it's one need, and a night. Smettila. One love, we get to share it. Leaves you bare. Grande. Beh, Bonovox, il mio sogno. C'è un ascoltatore che lo ha sintetizzato con una foto orripilante. Orripilante, l'abbia messa su Twitter, Alino Vox. Vai Bono! You act like you never had love. Want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Ricordiamo che questa è pur sempre una rassegna stampa, quindi rientriamo in noi e torniamo a Bono! Have you come here for forgiveness? Lo so che state cantando. Lo so che state cantando nelle vostre macchine. Vabbè, lo so che state cantando, cari ascoltatori. Allora, eccolo qua, vedi a fare il bono. Allora, i giornali. Oh, a proposito di politica, dopo il PD, dopo il Movimento 5 Stelle, Il Foglio invece lancia un'iniziativa. Oggi Claudio Cerasa, il direttore, firma questo editoriale a dire: un leader per la destra chiocciola ilfoglio.it, un titolo che è un indirizzo di posta elettronica. Perché? L'analisi del Foglio è: davvero il centrodestra non ha speranza di risorgere, dovrà affogare nella bolla salviniana, cioè in Matteo Salvini? Eppure le idee per un'alternativa a Renzi ci sono, serve un nome. E da oggi e per tutto il 2016 il Foglio lancia un casting per trovare dunque un leader del centrodestra, con l'invito: scriveteci qui, un leader per la destra, @ilfoglio.it. E il Foglio lancia questa iniziativa. Parliamo di qualche notizia di cronaca, cominciare da questa che mi ha discretamente inquietato. Riguarda una insegnante libica che vive a Palermo, si chiama Khadida Shabbi, 45 anni, è di Bengasi, e per la procura è una jihadista. Una persona che, intercettata nelle intercettazioni anche elettroniche, mail, ha dimostrato di essere vicina all'ISIS, vicina all'estremismo islamico. Palermo, ricercatrice libica, inneggiava alla Guerra Santa su Facebook e dunque è stata fermata. Il GIP, cioè il giudice, l'ha rilasciata. Non esiste pericolo di fuga, non ci sono gli elementi per tenerla in carcere. Il procuratore capo Lovoi, procuratore di Palermo, è stato durissimo. Ha detto: è una decisione del tutto inadeguata. E pensate che Repubblica, con Salvo Palazzolo, intervista questa signora di 45 anni. Lei, quasi implorando, dice: non sono una terrorista, lo dice in lacrime, l'ho detto a tutte le ragazze in carcere, io sono contro l'ISIS, contro. Sono una musulmana, osservo il Corano, non c'è alcuna frase nel Corano che giustifichi ciò che fanno queste persone. Sì, ma lei nelle intercettazioni dice altro. Lei era in contatto con estremisti in Libia, scriveva sui loro siti. Ma loro non c'entrano niente con l'ISIS. In Libia c'è la guerra tra due gruppi. Io volevo solo sapere notizie di mia nipote. E poi ancora, lei utilizzava la bandiera dell'ISIS, ma quella è la bandiera nera dell'Islam. È nera perché c'è la guerra in Libia. È la bandiera storica dell'Islam. Semplicemente l'ISIS si è impossessata di quella bandiera. Insomma, una vicenda controversa che finisce su tutti i giornali. Inneggiava all'ISIS, fermata una ricercatrice libica a Palermo, ma il giudice la libera. Anche Libero fa propaganda per l'ISIS, il GIP la lascia fare. Vabbè, bisogna vedere chi ha ragione. Certo che sono notizie che allarmano un pochetto. Questa invece è una notizia molto triste, che è raccontata da tutti i giornali, è la morte di un militare, Gianluca Danese, raccontata, il Corriere dedica a lui mezza pagina. Chi era Gianluca Danese? Beh, Gianluca Danese era l'ultimo dei reduci di Nassiriya. Pensate che compito terribile ha avuto questo maresciallo incursore dell'aeronautica a Nassiriya. Ricompose e identificò uno a uno i resti dei colleghi dilaniati dall'attentato alla base maestrale in Iraq il 12 novembre 2003. Qualcuno deve pur farlo, disse lui. C'erano 40 gradi all'ombra e c'erano quei poveri corpi da mettere insieme, racconta Giusy Fasano. Ebbene, lui è scomparso e l'Osservatorio Nazionale per la Tutela delle Persone delle Forze Armate dice: siamo certi che l'origine del suo male sia stata l'esposizione all'uranio impoverito. Contratta in varie missioni, diverse missioni fatte all'estero, Afghanistan, Gibuti, Iraq, Kosovo. Gianluca Danese ha 43 anni, è morto, e la notizia viene data da tutti i giornali: l'angelo di Nassiria ucciso dall'uranio. Questo è il titolo del giornale, che dedica a Gianluca Danese un'intera pagina, e così anche sul Giorno c'è mezza pagina. Mentre una notizia, una pagina che vi voglio segnalare molto bella e di Avvenire, è In viaggio coi samaritani della storia. Avvenire dedica la copertina, la prima pagina del quotidiano di oggi, alla vigilia del Natale, a coloro che fanno del volontariato sulla rotta balcanica, definiti i samaritani di Natale, per aiutare i migranti. Sulla rotta balcanica, nello scavo inviato in Macedonia, racconta a fianco dei migranti tutte le testimonianze di umanità che ci sono, indipendentemente dal giudizio che avete. È una storia, un racconto di persone che, avvocati, imam, infermieri, casalinghe, poliziotti, camionisti, insomma persone comuni che si sentono, di fronte a questo fiume di gente che si sposta per l'Europa attraversando i Balcani, di dare una mano senza farsi troppe domande, dare un aiuto umanitario. Ma eccoci qui, anche oggi non può mancare la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince Libero con Roberto Mirandola, un'intera pagina dedicata alle schifezze all'italiana, tutto ciò che fanno del nostro cibo come scempio nel mondo, tipo le fettuccine Alfredo negli Stati Uniti o gli spaghetti alla bolognese, la pasta e risotto, la Caesar salad, le meatballs, gli spaghetti meatballs, tutto ciò una pagina intera sul Libero. Ma chi se ne frega!